America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Devo dire che ci sono delle settimane in cui capitano più eventi, più o meno contemporaneamente, tutti di portata relativamente storica. Ecco, questa è una di quelle settimane. Tre di questi eventi sono collegati perché hanno a che fare col Medio Oriente, hanno a che fare con l'instabilità in Siria, per esempio, ma anche con l'instabilità in Libia. Proprio ieri Federica Mogherini, l'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha relazionato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU di modo che si possa procedere in parallelo, da una parte con una risoluzione del Consiglio che dia una protezione, un entroterra giuridico alle azioni che saranno poi decise ed approvate dall'Unione Europea forse già lunedì prossimo. Il quarto però elemento di questa settimana è di tipo commerciale, il cosiddetto TPA, il Trade Promotion Authority, è come dire uno strumento negoziale, una concessione di poteri speciali al Presidente degli Stati Uniti per poter negoziare degli accordi commerciali. Il voto sarà oggi al Senato, un voto importante, perché se questo strumento negoziale speciale sarà approvato, Barack Obama potrà negoziare in maggiore trasparenza questi accordi commerciali con 11 paesi nell'area del Pacifico per liberalizzare i commerci del Pacifico e soprattutto il TTIP con l'Unione Europea per liberalizzare i commerci transatlantici. Questa è la voce di Re Salman di Arabia Saudita, il quale doveva venire a partecipare a un vertice convocato da Barack Obama giovedì con il mondo arabo, e questo doveva essere un vertice destinato, come dire, a creare un'atmosfera di collaborazione, di amicizia. Doveva proiettare questo vertice una percezione di solidarietà fra Stati Uniti e mondo arabo nel momento in cui il negoziato con l'Iran diretto fra Washington e Teheran aveva guastato molto questi rapporti, soprattutto con l'Arabia Saudita. Venerdì la Casa Bianca aveva diramato un comunicato in cui confermava che l'Arabia Saudita avrebbe partecipato insieme al Kuwait, al Qatar, ai paesi del Golfo a questo vertice. E sì, l'Arabia Saudita partecipa al vertice, ma l'incontro annunciato dalla Casa Bianca fra Re Salman e Barack Obama a Camp David, un faccia a faccia di 2 ore, non ci sarà, perché il re non verrà più. È chiaro che si tratta di uno schiaffo politico per sottolineare quanto Arialzi continui a vedere una forma di tradimento americano nel negoziato avviato da Washington con Teheran sul nucleare. Non solo, ci sono altri problemi, perché Ariadne non è piaciuto che l'America abbia declinato per questioni procedurali, un difficile voto al Senato, la richiesta di un trattato per la difesa reciproca, un trattato che avrebbe garantito una protezione americana in caso di un attacco contro l'Arabia Saudita. Obama farà invece una semplice dichiarazione che impegnerà sì la sua amministrazione, ma non quelle successive. And I want to start by expressing an enormous thank you to the people and the government of Switzerland for their incredible generosity. The way in which they have welcomed us and the amount of effort is really extraordinary, and we're very, very grateful to them. John Kerry è partito ieri sera per la Russia. Questo è uno sviluppo di nuovo molto importante, secondo me, sul piano storico. Si incontrerà con Vladimir Putin a Sochi per discutere di Siria. Stati Uniti e Russia hanno cercato di lavorare insieme su ipotesi per una stabilizzazione dell'Iran. Gli Stati Uniti vorrebbero un cambiamento di regime, vorrebbero che alcuni personaggi politici minori, magari vicini al regime di Assad, prendessero il potere per garantire poi un 2 o 3 anni di transazione e per arrivare a delle elezioni. La Russia invece è contraria. La Russia, non dimentichiamolo, ha una base militare importante in Siria. Tutto si era insabbiato l'anno scorso, nel febbraio dell'anno scorso, quando un tentativo di un compromesso si chiuse poi con un nulla di fatto. Ecco, la partita si riapre. Perché questo è importante, secondo me, su più livelli? Perché Russia e Stati Uniti negoziano ai massimi livelli nel momento in cui sul fronte invece dell'Ucraina sono ai ferri corti. Ecco, in questo momento di ordine internazionale confuso c'è uno spacchettamento dei dossier. E dunque è possibile litigare su un fronte, ma negoziare su un altro, dove c'è un interesse comune, perché la Siria sta preoccupando molto la Russia. Ci sono personaggi che dalla Cecenia sono andati a combattere con l'ISIS e Putin teme che questi personaggi possano rientrare in Russia per diventare poi terroristi, un problema non diverso da quello degli Stati Uniti, che ha visto un tentativo di attentato proprio una decina di giorni fa a Dallas. Ecco, questo secondo me è un messaggio importante anche all'Arabia Saudita, che decide di non venire, ma che deve rendersi conto che laddove vorrebbe avere influenza, per esempio in Iran, beh, ci sono due potenze superiori che a questo punto stanno chiacchierando fra loro. E torniamo alla missione della Mogherini, che poi è stato uno dei fatti del giorno di ieri. Beh, la Russia aveva delle preoccupazioni sul fatto che la decisione europea o la risoluzione delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, potesse ignorare la volontà della Libia. Ebbene, la Mogherini ha cercato di rassicurare proprio su questo punto. Sentiamola. Le intenzioni dell'Unione Europea sono quelle di collaborare, di lavorare insieme alle autorità libiche, il più possibile, tutte le autorità libiche. Vorrei sottolineare in questo un ruolo particolare che le municipalità e i sindaci possono avere nello smantellare le organizzazioni criminali, per una ovvia conoscenza del territorio e anche per una vicinanza alla popolazione civile che è direttamente interessata, perché non dimentichiamoci che questi sono traffici che hanno anche una ripercussione importante sulla sicurezza e la stabilità di intere comunità a livello territoriale. Ecco, la Mogherini ha poi chiarito che il problema dei migranti nel Mediterraneo non è soltanto un problema umanitario, certamente importante, ma anche un problema di sicurezza. E ha detto: siamo qui per agire subito, per noi questo è un dovere morale. Ci sono quattro obiettivi, ha detto la Mogherini, nella missione che dovrebbe prendere corpo sotto le direttive europee e con l'ombrello di garante da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questi obiettivi sono aiuti ai paesi di origine e di transito dei migranti per evitare che costoro si muovano, il secondo controlli alle frontiere in Libia nei paesi confinanti, il terzo più operativo e certamente di potenziale connotazione militare, anche se la Mogherini ha cercato di rassicurare il Consiglio di Sicurezza, non ci saranno operazioni militari, ha detto. Beh, però questo prevede missioni contro i trafficanti di esseri umani e contro gli scafisti. Queste missioni non potranno che essere delle missioni mirate, per esempio a distruggere gli scafi o comunque ad arrestare, a fermare questi trafficanti di vita umana. Al quarto punto vi è una suddivisione dei profughi attraverso un meccanismo di quote tra i paesi dell'Unione Europea, perché, ha detto la Mogherini, certamente non potremo rimandarli indietro. In tutto questo, la Mogherini non ha voluto dire se l'Italia avrà un ruolo di primo piano, dice ancora non ci siamo, dobbiamo parlarne in Europa, lo faremo la settimana prossima. Ebbene, posso dirvi che qui nei corridoi delle Nazioni Unite si dà per certo che il nostro paese invece avrà un ruolo di primo piano nel coordinamento di questa operazione. Ne va del resto del nostro interesse diretto. La Libia è un paese con cui abbiamo avuto rapporti molto vicini sul piano politico, su quello economico, e le minacce non sono soltanto quelle di migliaia e migliaia di migranti clandestini, ma sono anche quelle a questo punto di possibili terroristi che possano infiltrarsi e minacciarci direttamente. Bisogna mettere la parola fine a questo ed è bene ed è giusto che l'Europa si sia mossa, ed è altrettanto bene e giusto che si siano mosse anche le Nazioni Unite. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, una settimana molto intensa, una settimana con un ruolo americano su più fronti. Dunque, di Rihanna vi propongo American Oxygen, terzo singolo da R8, ottavo album della cantante. Tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.